A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Parole per denunciare, parole per avvelenare, parole per raccontare, parole per intorpidire, parole tutte da verificare. Le parole possono essere una straordinaria arma contro i silenzi delle mafie, ma le parole possono diventare anche, in mani sapienti, un pericoloso strumento contro chi quelle mafie le combatte. Di parole parliamo in questa puntata di A ciascuno il suo. Quelle scandite a voce alta nelle piazze o quelle invece veicolate dall'oscurità, delle parole di un pentito parliamo. Oggi pomeriggio sono stato invitato, senza preavviso, all'ufficio della DNA di Roma, di cui sono stato oggetto di pressioni psicologiche, di cui mi è stato obbligato ad accusare delle persone che io non conosco. Dopo la mia audizione ho sottoscritto le mie dichiarazioni. Parla davanti ad una telecamera Antonino Lo Giudice, il nano, il pentito di 'Ndrangheta, o forse bisognerebbe dire ex pentito, che sta diffondendo su Reggio Calabria l'ultima ondata di veleni. Avrebbe dovuto deporre il 6 giugno in videocollegamento, ma lo schermo è rimasto sempre spento e poche ore dopo tracce del boss, che nel 2010 aveva cominciato a collaborare, sono arrivate attraverso una lettera e questo video, diffusi mediante gli avvocati subito dopo la sua scomparsa, ma girati 2 mesi prima. Lo Giudice si era assunto la responsabilità della bomba contro la Procura Generale e del bazooka indirizzato all'allora procuratore Pignatone, nel momento in cui la 'Ndrangheta aveva tentato la strategia della tensione, nello stesso periodo in cui un'ex fonte dei servizi segreti veniva accusata del ritrovamento di un'auto con le armi nel giorno della visita del capo dello Stato a Reggio Calabria e poi anche di aver spifferato ai boss notizie sulla più grande operazione contro la 'Ndrangheta degli ultimi tempi, i 300 arresti tra Reggio e Milano. Dalle sabbie mobili di quella stagione emerse dunque la collaborazione del nano, rampollo di una delle famiglie, protagonista della guerra degli anni Ottanta, che ha mosso anche accuse ad Alberto Cisterna, magistrato già numero 2 della Direzione Nazionale Antimafia, poi indagato e trasferito per una storia di pentiti, appunto, ma alla fine archiviato. Ora Lo Giudice ritratta tutto e dice di aver subito pressioni. O forse piuttosto le pressioni le ha subite per rimangiarsi tutto, si chiedono ora gli investigatori che indagano sulla sua scomparsa. Una storia opaca questa, come poche altre. Una storia in cui, rivelano ad A ciascuno il suo gli investigatori, non sappiamo neanche se Lo Giudice è vivo o morto. I dubbi si mescolano agli interrogativi, tanto fitti quanto inquietanti. Secondo un copione però già visto nella storia dei collaboratori di giustizia, come ricorda Salvatore Lupo, uno dei principali studiosi di mafie. Si sono viste anche quelle che sono state chiamate le rivelazioni errate. Il termine pentiti ovviamente rischia anche di portarci fuori strada. Non è detto che il pentito sia pentito veramente. È un collaboratore di giustizia, è uno che scambia con la legge, con l'autorità dello Stato, dei favori, in cambio di altri favori. Questo sistema non faceva parte della nostra tradizione giuridica fino a qualche decennio fa, era piuttosto tipico degli ordinamenti anglosassoni. Poi, per necessità di cose, è entrato a far parte delle nostre pratiche e delle nostre leggi. Non necessariamente quello che dice un cosiddetto pentito è la verità, è una verità che va vagliata e si potrà sempre e spesso tener conto dei suoi interessi, che sono mutevoli, secondo anche dell'evoluzione del suo rapporto con il suo mondo d'origine. Perché naturalmente il pentito, per parlare, oltre a volere qualche cosa in cambio della legge, sarà mosso anche da relazioni di conflitto con i gruppi suoi di origine. Questo sicuramente, infatti, anche le vicende passate di altri pentiti più o meno celebri hanno dimostrato tutto questo. Sappiamo anche come le inchieste però di questi decenni hanno anche confermato che laddove le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che devono necessariamente, ricordiamolo, passare attraverso una conferma e un riscontro, laddove appunto un collaboratore è stato considerato attendibile, si è sempre e spesso rivelata anche una preziosa fonte di indagine per i magistrati. Però il rischio che c'è a volte anche con le parole dei pentiti è anche quello che c'è un rischio strumentalizzazione di vario tipo. Le rivelazioni si fanno per certe ragioni, ci si possono anche ritrattare per certe ragioni che riguardano la relazione del collaboratore con le istituzioni. Poi le istituzioni sono persone e gruppi concreti con cui inevitabilmente si interrela. Lei dice la strumentalizzazione, ma è evidente, cioè, è tutta una strumentalizzazione. Bisognerà vedere ovviamente che cosa da questa reciproca strumentalizzazione viene fuori. Il punto fondamentale, non voglio insegnare ai magistrati il loro mestiere, che loro non devono dipendere da un pentito o nemmeno da un gruppo di pentiti. Devono cercare di ricostruire la vicenda prendendo spunto dalle rivoluzioni dei pentiti e poi andare avanti, che se no, certo, questi giochetti di andare, di tornare, di dire, non dire e negare sono sempre possibilmente all'ordine del giorno, fermo restando che ci possono essere anche i falsi pentiti, ce ne abbiamo visti diversi. Certo, non ultimo poi, nelle vicende sulla strage di Via D'Amelio, certo. Esatto, perché naturalmente i loro amici, i gruppi di origine possono avere tutto l'interesse a che qualcuno di loro fuorvii l'indagine. Poi c'è tutta l'altra fenomenologia di chi parla per danneggiare la fazione avversa, dicendo semplicemente le cose che servono per danneggiare la fazione avversa tutelando la propria. Da un punto di vista storico, episodi di questo tipo a lei richiamano dei precedenti precisi? Il caso più noto è quello di Contorno, che dopo essersi pentito tornò a fare azioni, da preparare azioni da boss mafioso. Invece il più famoso dei pentiti, Tommaso Buscetta, in molti casi, almeno questa è la mia impressione, indirizzò la sua testimonianza, le sue rivelazioni, peraltro, come si sa, di fondamentale importanza per capire la stessa natura e la stessa esistenza di Cosa Nostra, le indirizzò contro i suoi avversari corleonesi, ma stette bene attento a tenere completamente fuori molti dei i suoi maggiori interlocutori americani. Per cui è tutto, come dire, è solo un punto di partenza questo qua. E l'andare e tornare di queste testimonianze è sempre un rischio che esiste. Sicuramente, questo conferma l'importanza da una parte delle parole nella lotta alla mafia, ma anche l'ambivalenza alle parole come uno strumento anche pericoloso e quantomeno di sicuro delicato da utilizzare. La stessa parola pentito, come dicevo in avvio, è una parola molto traditrice. Se il riferimento del pentito è una sfera religiosa, non ci siamo proprio. Se invece il riferimento è al pentimento, ad esempio come si usò per il terrorismo politico, cioè il rifiuto, il cambiare scelta ideologica, solo qualche volta i collaboratori di mafia hanno avuto questo tipo di rovesciamento ideologico. Quindi il termine pentito è pieno di echi fascinosi e interessanti, ma molto spesso è sovradimensionato rispetto all'oggetto di cui stiamo parlando. Anche perché sono abbastanza sicura nel pensare che la parola abbia origine più da un'esigenza, diciamo, molto pratica e mediatica, di una parola che fosse più breve e più precisa, che da mettere in un titolo di un giornale, che non collaboratore di giustizia, è troppo lungo, mentre pentito è più diretto, più immediato e più corto. Però sicuramente, lei dice, è fuorviante per i significato e per gli echi che la parola stessa contiene in qualche modo. Rispetto agli altri due possibili pentimenti, che sono quello ovviamente morale e religioso e quello politico, perché poi è vero che queste istituzioni, queste pratiche cosiddette premiali, cioè io ti do un premio perché tu per farti collaborare, sono nati inizialmente, sono stati introdotti nel campo della lotta al terrorismo politico e poi in quello della lotta al terrorismo mafioso. E quindi questa sequenza è molto importante, perché ancora noi rischiamo, usando la parola pentito nell'uso e nell'altro caso, di dare un sovradimensionamento ideologico a questa vicenda dei pentiti di mafia, che invece solo in alcuni casi può esservi inquadrata. L'ultima cosa che credo, professore, è questa: avevamo citato dei precedenti riguardanti Cosa Nostra, che ha una storia di pentiti lunga e controversa. Questo stesso discorso si può fare anche per la 'Ndrangheta calabrese? Si dice che la 'Ndrangheta calabrese sia molto più compatta e quindi offra meno spazi a fenomeni di pentimento. Devo rilevare che questo si diceva anche per la mafia. Io penso che nessuna organizzazione criminale abbia la compattezza assoluta. Le collaborazioni si ottengono con una attività investigativa sottile, intelligente e continuativa, che essa crea spazi nella compattezza delle organizzazioni criminali. Penso che alla fine la ragione per cui la 'Ndrangheta è rimasta più compatta è il fatto che è stata perseguita meno e peggio della mafia siciliana, e quindi non dubito che di fronte all'attuale rinvigorimento delle indagini ci saranno fenomeni di questo genere anche nella 'Ndrangheta calabrese. Ma le parole restano uno straordinario quanto delicato strumento nella lotta alle mafie, per smascherare quello che altri vorrebbero lasciare nell'ombra, per raccontare quello che di positivo invece succede, ma anche per incoraggiare. A ciascuno il suo. Diceva Paolo Borsellino: parlate di mafia alla radio, alla TV, ma parlatene. La lotta alla mafia infatti vive delle parole di chi ha il coraggio di raccontarla, ma la lotta alla mafia, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, subisce anche le parole di chi le trasforma in veicolo di veleni, strumento per intorbidire, arma d'attacco. Così, ad esempio, da un giornale di Reggio Calabria è partita una campagna contro le sindachesse di Monasterace, Rosarno e Isola Caporizzuto, prese di mira ancor più che per la propria esposizione contro le cosche per il fatto di essere donna. Ne è sicura Elisabetta Tripodi, primo cittadino di Rosarno, patria del clan Pesce che tutto controlla nella piana di Gioia Tauro. Sono degli attacchi che abbiamo subito come sindache donne in un periodo recente, delle quali venivamo accusate un giorno sì, un giorno no, dileggiate sia su un fondo della prima pagina di un giornale calabrese, sia su quest'altro giornale diffuso nella provincia di Reggio Calabria, anche distribuito gratuitamente, nella quale venivamo attaccate solo per il fatto di essere donna, di essere sindaco e per avere la patente di sindache, diciamo, anti-'Ndrangheta. Io lo ritengo più un attacco maschilista che un attacco per l'antimafia. Le posso chiedere che cosa c'è scritto? Veniamo attaccate sotto il profilo del voler far carriera, di essere delle icone antimafia, ma il pezzo più brutto, quello che poi ha fatto nascere in noi l'indignazione e anche la voglia di denunciare questa cosa, è stato quando ci è stato augurato che ci portassero, eravamo in tre corone funebri. Quindi una vera e propria minaccia, e questo attraverso un giornale? Sì, dileggiando in tono ironico, sempre con l'uso di pseudonimi, mettendo praticamente in ridicolo, secondo lui, ritenendoci delle false sindaca dell'antimafia, l'attività amministrativa senza neanche conoscerci. Io questo signore non lo conosco, non ci ho mai parlato. Immagino. È un intellettuale anche di sinistra. Cioè si definisce un intellettuale di sinistra. Tutto si poggia su una cultura profondamente maschilista. Sì, io ritengo di sì, che è legato proprio alla mancata accettazione del ruolo delle donne in politica, in questo caso in Calabria. C'è stato anche un episodio di una minaccia molto grave ad un'altra delle sindachesse, sì, anche se non è stata rieletta, che è appunto la Girasole, sì, l'ex sindaco, sì, di Isola Caporizzuto. Vi sentite in qualche modo adesso ancora più esposti, visto che, come è successo per la Girasole, le minacce hanno avuto un crescendo? Spero di no, spero soprattutto, ho motivo di ritenere che sia una grande solidarietà nei nostri confronti a livello nazionale, perché nostro malgrado siamo diventati sì dei simboli, dei simboli, c'è alta l'attenzione. quello che invece noi avremmo bisogno, come avranno bisogno tantissimi altri sindaci d'Italia, è un'attenzione da parte della politica più alta. È molto difficile dare delle risposte in un momento di crisi come questo ai nostri cittadini, per cui corriamo il rischio che questo lavoro venga vanificato perché non riusciamo a dare delle risposte concrete ai bisogni della gente. Avete avuto anche voi problemi di rifiuti come in altre realtà calabresi? Sì, noi siamo sommersi dai rifiuti, pur avendo l'unico inceneritore della Calabria a 3 km. È un sistema che è andato completamente in tilt, non sappiamo come affronteremo l'estate, nonostante siamo un paese in regola con i conti, che paghiamo la Regione Calabria e paghiamo tutti i nostri creditori. Quanto voi vi rendete conto che sia importante l'uso corretto della comunicazione in vostro territorio? Io penso che sia fondamentale, me ne rendo conto tutti i giorni. Tutti i giorni, seguendo la stampa locale ma anche la stampa nazionale, c'è un problema di stampa nazionale sulla Calabria, che vive un cono d'ombra e raggiunge la ribalta esclusivamente per episodi di tipo negativo. E poi c'è un problema assolutamente locale sull'informazione, sulla necessità di comunicare bene, come sia importante parlare di legalità, parlare nei territori, praticarla sul campo con l'esempio. E però questi esempi devono essere anche veicolati proprio per infondere nella gente la possibilità che qualcosa può cambiare. Io credo che segnali positivi ce ne siano. Poi un uso pericoloso dell'informazione viene fatto quando i giornali diventano a livello locale uno strumento di enfatizzazione di determinate situazioni, diciamo, giudiziarie, quanto possono essere usati come attacco nei confronti dei lavori dei magistrati delle forze dell'ordine. Penso anche alla polemica sul 41 bis che recentemente ha riportato la ribalta nazionale, o anche sull'uso dei collaboratori di giustizia. E c'è proprio in queste ultime ore una vicenda di questo tipo a Reggio Calabria. Certo. L'ultima cosa che le chiedo, sindaco, è come è stata accolta nella sua città, a Rosarno, la sentenza che c'è stata non molto tempo fa per il processo All Inside, che riguarda appunto la cosca pesce che ha radicamento proprio a Rosarno, che però è stato anche un processo particolare perché ha visto la collaborazione di una donna che con le sue parole anche ha portato ad un segnale di cambiamento, arrivando anche a delle condanne importanti per la comunità. E per lei che cosa ha rappresentato e come è stata accolta? Guardi, noi questo processo l'abbiamo seguito in maniera diretta, nel senso che ci siamo costituiti parti civile, costituiti come amministrazione, come parte civile. Non ci è stata riconosciuta l'indennizzo che verrà poi terminato in sede civile. Abbiamo scelto questa strada proprio per dimostrare che andavamo contro l'organizzazione mafiosa nel suo complesso, che sicuramente per la sua presenza ha indebolito il patrimonio e l'economia della mia città, che è stata fortemente danneggiata dalla presenza di quelle cosche. Non ci sono stati dei commenti ufficiali, ma questo lo capisco, lo comprendo, non è il cittadino comune, non fa sicuramente dichiarazioni sulla stampa. È chiaro che in questi ultimi anni in città c'è un clima diverso, un clima di maggiore presenza delle forze dell'ordine, di maggiore attività giudiziaria, l'apporto di una donna che ha parlato con tutti i suoi familiari, credo che abbia inciso sia dal lato della società civile sia dal lato delle cosche, abbia inciso profondamente, non tutto più sarà come prima. Le parole che mancano alla Calabria e che l'hanno relegata in un cono d'ombra a tutto vantaggio dei clan. Ma da 3 anni, proprio da una piazza calabrese, rimbombano anche le parole di sfida ai boss lanciate dal palco di Trame, il festival dei libri di mafia a Lamezia Terme dal 19 al 23 giugno. Parole che danno fastidio a chi vuole invece il silenzio, ma che rincuorano e smuovono tutti gli altri. Parole che quest'anno hanno l'appoggio anche della presidente della Camera, Laura Boldrini, incontrata dal neo direttore di Trame, Gaetano Savatteri. Con Trame noi vogliamo fare emergere tutti quelli che giorno dopo giorno lottano per la legalità, per i diritti contro le mafie. E quindi da una parte sono le istituzioni che sono accanto alle forze vive della società, ma anche le forze vive della società devono stare accanto alle istituzioni, tant'è vero che quest'anno c'erano le sindache antimafia, minacciate dalla mafia, perché spesso gli amministratori locali, ma insieme a loro le magistrate, le giornaliste, le insegnanti, sono spesso molto sole e quindi hanno bisogno di sentire la presenza di chi combatte la stessa battaglia, ma anche le figlie dei mafiosi che si ribellano, le mogli dei mafiosi che si ribellano, tutte quelle donne che in Calabria, oggi non solo in Calabria, stanno determinando dei cambiamenti radicali. Qual è stato il messaggio che invece il presidente Boldrini ha voluto consegnarvi? Che tipo di messaggio vi ha dato? Il presidente Boldrini ha voluto consegnare il fatto che spesso questa società, chiamiamola civile, o se vogliamo queste persone di buona volontà che in Calabria, ma come in molti luoghi d'Italia, si impegnano quotidianamente per i diritti, per la legalità. Ad esempio, tutti quei ragazzi, nel Festival Trame ci sono quasi 100 volontari che hanno mandato una lettera alla Presidente Boslini dicendo che loro rappresentano l'alta Calabria. Ebbene, il Presidente Boslini ha detto come spesso tutti questi esempi vengono, restano dentro un cono d'ombra, non vengono alla luce. E c'è un'Italia che lavora, che si impegna, che combatte, che invece meriterebbe di avere una maggiore visibilità. Dal 19 giugno io sarò al Festival Trame e vi racconterò la sfida delle parole contro i silenzi dei boss sul sito radio24.it, sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter l'account è Raf Calandra. Scrivetemi, ciao a tutti, a presto.